Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Se non l'avete capito, qui è cambiato tutto. Voi dovete pensare che vendere sia come una guerra. Ora siete in trincea e voi siete i soldati pronti a combattere. Ecco, a quel punto la decisione io l'avevo già presa. Si trattava solamente di alzarsi in piedi e dire queste parole. Senti capo, in guerra vacci tu. Io vado a vivere al mare. Mi chiamo Paolo, vivo a Grosseto e ho cambiato vita e ho realizzato il mio sogno. I sogni da adulti sono sogni che di solito sono più a portata di mano dei sogni che si fanno da ragazzini. Non per questo però sono facilmente realizzabili. Sono le 16 e 7 minuti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui e oggi è la storia di Paolo. Io sono Matteo Caccia e oggi, se avete voglia di raccontarmi se avete mollato tutto e siete andati a vivere in campagna, potete chiamarmi 800 24 0024. La storia di Paolo, partiamo da qui. Paolo, come dice nella sua intro, ha realizzato un sogno. Il suo sogno non è un sogno da ragazzino, cioè non è andare sulla luna oppure giocare con la maglia della Juventus. Il suo sogno è un sogno che, come poi dice lui meglio di tutti e come Maggi ha detto al telefono e gli chiederò di ripeterlo, è un sogno veramente a portata di mano, perché lui dice: io non ero ricco, non avevo soldi, ho semplicemente a un certo punto deciso che mollavo la città, mollavo il lavoro che avevo, anche se c'era crisi, però il lavoro ce l'avevo e mi permetteva di vivere anche bene, l'ho mollato e ho aperto un agriturismo, un bed and breakfast in Toscana. Io vorrei che tutte le persone che lo hanno fatto in questo momento, in giro per l'Italia, tutte quelle che vivevano in una città o in un paese più o meno grande, che comunque avevano un lavoro strutturato, che non sono stati quindi licenziati, ma che a un certo punto hanno detto: davvero, basta, io non accetto più questo ritmo di vita, non accetto più questo stile di vita, non ho più voglia nemmeno di sentire usare certe parole, non ho più voglia di vedere e sentire certe cose, non ho più voglia di vedere certe facce. Io vorrei che quelle persone oggi che hanno mollato quel lavoro, hanno preso e sono andate a vivere in un posto che non dico sia più a misura d'uomo, ma è più a misura loro, che sia la campagna, il mare, la montagna o un paesino più piccolo, hanno cambiato lavoro, hanno aperto le attività di cui si parla quando si parla di un'attività che vuoi aprire e non lo fai mai: agriturismi, coltivazione, allevamenti, qualunque cosa essa sia. 800 24 0024, mi chiamate e mi raccontate esattamente come avete fatto, perché questa rischia di diventare un alibi. Parlo anche per me, no? Quello che ci si dice: guarda, non ce la faccio più, non ce la faccio più, mollo, guarda, prima o poi mollo tutto e apro un agriturismo in Umbria. Rischia di diventare un alibi il fatto di avercelo nell'anticamera del cervello se non lo fai mai. Ecco perché vorrei sentire quelli che, come Paolo, l'hanno fatto. 800 24 0024, che attività avete, che cosa avete lasciato a casa, come state, immagino, spero meglio per voi, altrimenti non sareste lì. Ripeto, in diretta 800 24 0024. Sono già arrivati dei messaggi, altrimenti c'è anche un cellulare 349 238 6666, quello però solo via SMS. Qualcuno che l'ha fatto c'è. Daniele, ero in Inghilterra, invece mi sono fatto una bellissima famiglia, vivo ad Asti. Cinzia, a Bonassola, piccolo paesino ligure, vorrei andarci a vivere e aprire un piccolo ristorante sulla spiaggia, invece sono a Modena a fare maglioni. Non credo la maglia. Prima o poi forse riuscirò a realizzare questo sogno. 800 24 0024, quelli che lo hanno realizzato, spieghino a Cinzia come si fa. Rudolf dice: le opzioni per un'eventuale fuga per ora sono due: un villaggio sull'oceano Atlantico in Bretagna, probabilmente con Roca, che evidentemente è una sua amica, compagna o fidanzata, abitare in una deliziosa casetta tradizionale e lavorare o in un museo locale o aprendo una piccola trattoria. Rudolf, questo è molto, diciamo, immaginifico come paesaggio. Oppure due, sempre con la stessa compagnia, riuscire a mettere su una cascina in campagna, magari nella campagna toscana, e vivere circondato dalla tranquillità dei monti e degli animali. Ma vi assicuro che a me basta molto meno oggi, mi basta che vi siate trasferiti da una città dove lavoravate a un altro posto, che non deve essere per forza bucolico, ma è un posto che vi assomiglia di più. 800 24 0024, Paolo l'ha fatto. L'antefatto vuole che fossi un funzionario commerciale nel mondo della comunicazione pubblicitaria. Ovviamente quando si parla di pubblicità si parla di Milano.

un libro di Francesco Piccolo, di cui non ricordo il sulla nome. Quello sulla felicità, forse. Piccole, bravo, piccoli, okay. Momenti di intrascurabile felicità. È la vita oscena di Aldo Nove. Paolo, io ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto, davvero. Grazie, Matteo. In bocca al lupo a voi tutti. Buona giornata. Ciao, grazie mille. Ciao. Ci penso da un anno ormai, ma non l'ho ancora fatto. Vorrei avere una piccola fattoria in collina, firmato Ercole. Ercole, cosa siamo qui a fare? Voi siete qui. È vestito da chef o da cuoco? Non conosco benissimo la differenza, però è vestito da cuoco, diciamo, Paolo, nella foto che ci ha mandato. Ha un cappello in testa rigato e un completo anche rigato bianco e nero, a righine sottili sottili, e con un grembiule. È tutto in tinta, nero e bianco e nero. Non so se nel suo bed and breakfast o è una di quelle cene che organizzava, come diceva prima, in onda, perché alle sue spalle ha una lunga fila di bicchieri pulitissimi e tiene un bicchiere in mano. Ripeto, non so dove sia, se è a Grosseto, se è a Milano o dove, però ha la faccia di uno che cucina bene. Fuga. Sostantivo femminile. Improvviso, precipitoso o segreto abbandono di un luogo imposto da gravi motivi, non sempre giustificabili moralmente. Estensivo e figurato, efflusso di un fluido attraverso la rottura di un condotto. In musica, la forma più complessa di contrappunto, in cui uno o più temi vengono esposti, imitati ed elaborati, rincorrendosi ed intrecciandosi tra di loro, in una struttura rigorosa dal punto di vista armonico e tonale, ma libera nel suo sviluppo. Etimo, dal latino fuga, derivato di fuggere, fuggire. Data, fine secolo XIII. I sogni a portata di mano sono quelli più difficili, che appaiono più difficili, forse perché ce li ripetiamo in continuazione e non li realizziamo mai. Poi invece qualcuno come Paolo a un certo punto molla tutto, molla il lavoro semplicemente, la città, beh oddio, però molla anche gli amici e tutto quello che c'è in quel luogo. E se ne va e apre un bed and breakfast, così come scrive un anonimo marchigiano. Ho lasciato un'azienda nazionale di Modena, ambiente ricattatorio e intimidatorio, ora coltivo verdura e allevo conigli, una pacchia. Ma anche Alberto, che è un cuoco, e dice: stiamo organizzando con la mia compagna italo-americana il trasferimento in Virginia per aprire un bed and breakfast con annesso piccolo ristorante. Si parla di gente che vuole lasciare l'Italia per andare a aprire un bed and breakfast, ed è il caso di Fabio dalla provincia di Pavia. Pronto, Fabio? Sì, ciao Matteo. Ciao, sono Fabio. Come stai? Bene, buonissimo, grazie. Dove sei in questo momento? In ufficio. Sei in ufficio dove? In Pavia. Sono a Pavia. Che lavoro fai tu esattamente? Sono responsabile di un'azienda americana, la filiale italiana. Mi occupo di, microfiltrazione. Comunque, microfiltrazione? No, non lasciamo perdere. Io voglio sapere tutto quello che si può dire sulla microfiltrazione. Che cos'è? Ma no, cosa si può dire? Si può dire che si utilizza per la sterilizzazione, la stabilizzazione di prodotti farmaceutici, nella fattispecie o alimentari. Okay. E io mi occupo appunto di customer assistance, sono responsabile della sede italiana, abbiamo aperto la filiale italiana 4 anni e mezzo fa, quasi 5, e c'è anche mia moglie nell'avventura. Voi cosa volete fare esattamente, Fabio? Aprire un bed and breakfast. Ma dove? Nelle Asturie, Asturias detto in spagnolo. Asturias, che è nord della Spagna, giusto? Sì. Perché nelle Asturie innanzitutto? Perché lei è spagnola. Abbiamo selezionato, dopo un'attenta indagine di mercato, quella zona, perché innanzitutto è una zona tranquillissima e unisce a quanto pare l'utile della vacanza, il dilettevole di vedere posti particolarmente interessanti. Questo per gli ospiti, cioè per sì, i clienti? Sì, assolutamente. Ok, assolutamente. Quindi insomma c'è un mercato. Non è un consumo di massa, te lo dico subito, Matteo, chi verrà a trovarmi? Ti ringrazio per dirmelo, allora lo ribatto anch'io. Ragazzi, se andate nelle Asturie non è un turismo di massa. Assolutamente, è un turismo da vedere, insomma. Dimmi la tempistica, Fabio. Guarda, la tempistica, mia moglie dovrebbe partire a fine aprile. E dico dovrebbe, nel senso che abbiamo già tutto sistemato, cui dovremmo rilevare l'attività proprio alla fine di aprile, quindi fine aprile, inizio maggio partire con l'avventura, quasi, perché cominceremo con un'attività che rileviamo da un attuale, locatore, che però era un pochettino morta come situazione. Ok, e poi ti devo salutare. Fabio, tu quindi molli, ti licenzi, cosa fai? Perché non puoi usare la parola licenziare, perché sei in ufficio. Mi autolicenzio, che per una certa fase sarò ancora qui io e lascerò mia moglie con le mie due bimbe, una di 5 e una di 1 anno e mezzo. Okay. Quindi sarà una un'avventura in tutti i sensi, per mia moglie in particolare e per me che dovrò stare lontano per un po', e giusto per perché si sistemino un attimo gli affari, insomma. Mi dici, e poi ti saluto davvero, qual è più o meno la mole dell'investimento? E inizialmente intorno ai 50.000 euro. Ok, va bene. Fabio, ti ringrazio e ti faccio un sacco di bocca al lupo. Crepi. Buona giornata. Al te, ciao Matteo. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Lucca da Matteo. Pronto Matteo? Ciao. Matteo. Come stai? Bene. Dove? Ho appena recuperato mio figlio dall'asilo. Dove sei Matteo? In macchina quindi, giustamente. Sì, in macchina. Però tu hai lasciato un'agenzia anche tu di comunicazione a Milano. Esatto, sento che ce ne sono tanti. Sono tanti quelli che mollano. Allora, i casi sono due, cioè veramente un segno dei tempi. O la comunicazione sta andando veramente malissimo, oppure è che la gente che la fa dopo un po' si usura. Guarda, è abbastanza complesso come discorso, nel senso che una volta c'è una parte economica, nel senso, ammettiamolo, si guadagnava molto meno, molto bene, adesso si guadagna molto meno. E c'è una parte, io credo, di usura, permettimelo di dire, proprio di usura personale, sì. Per cui, come diceva qualcuno che ha chiamato prima, io personalmente facevo il copywriting. A forza di scrivere cose di cui ti rendi conto sono un po' surreali per quello che pensi tu. Surreali non è male. A un certo punto non ce la fai più. Come definizione. Okay. Dimmi che cosa fai adesso, Matteo. Sei nato a Lucca e cosa fai? Io sono capitato a Lucca, prima vivevo in Spagna e ho lavorato per un periodo, quando mi sono licenziato a Milano, ho lavorato come un periodo come freelance. Con la mia compagna spagnola che lavora per un'orchestra sì. Purtroppo Matteo non ho tantissimo tempo, quindi allora, ti devo chiedere dico molto velocemente. Vai. Molto velocemente. Ho camminando per Lucca ho visto una delle ultime antiche tipografie che stampano ancora con i caratteri mobili, con le antiche Heidelberg stella. Di che anno quindi? Metà del 1800 fino a metà. E hai rilevato la tipografia? Ho rilevato la tipografia, ho avuto la fortuna enorme, una cosa che secondo me si è persa completamente, di avere un maestro, un vecchio maestro che purtroppo ora non c'è più, aspettato che io recuperassi questa cosa per andarsene. E come va il lavoro, Matteo? Il lavoro va bene, voglio andare in controtendenza. Okay. Il lavoro artigianale di alto livello va bene. Sforzi enormi. Questo, immagino. Questo Matteo, ci sono altre persone in attesa, quindi ti ringrazio e ti saluto. In bocca al lupo. Ciao. Andiamo a Treviso da Lucio, dalla provincia di Treviso. Pronto, Lucio? Pronto. Ciao, buongiorno. Ciao. Tu hai, leggo qui, hai smontato una casa in Francia? Sì, allora è capitato così. Allora, io da Mestre sono andato a abitare in campagna, sì. In provincia di Treviso, a Casale Sussile. Dopo sì. Ho messo a posto la casa, comprata che aveva solo un rubinetto, messo su tutto, ma mi sono accorto nel 2001 che mi era stretta, che non era più la campagna che... Okay. E quindi cosa hai fatto? Che io sono un agrario, per cui un agrotecnico, un erborista... E cosa hai fatto, Lucio? Allora, ho cambiato lavoro. Lavoravo all'associazione allevatori nel periodo della mucca pazza, che non è, secondo me, la mucca pazza, ma è l'uomo. Vabbè, poi non entriamo nel merito perché ho tipo un minuto, quindi... Sì, allora è venuta una persona e mi ha domandato se vuoi...